insieme su i colori dell'anima. Buonasera a tutti, buonasera ai nostri radioascoltatori dei colori dell'anima e soprattutto buon anno. Buon anno da me Rosanna e buon anno da Anna Maria e da Alessandro. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori in modulazione di frequenza. Stasera siamo tutti e tre, quindi Alessandro, Anna Maria, Rosanna. Come sapete, restiamo in vostra compagnia dalle 21 alle 22. Mi raccomando, rimanete con noi con la trasmissione dedicata ai propositi o i buoni propositi per il 2017, per il nuovo anno, che non so se voi cari radioascoltatori fate, noi, alcuni di noi almeno lo fanno, non tutti. Ma io credo che lo facciano tutti, più o meno. No, dopo... Ma tutti chi? Elenca, nome, cognome, data di nascita. Nome, data di nascita, no, però insomma, quando ti chiedi intorno, ognuno vuole cominciare con... Allora, comunque, disclaimer prima di iniziare. Mi raccomando, ho fatto un sacco di pubblicità stasera, tra parenti, amici, fidanzate varie, quindi siate bravi al di là del vetro, mi raccomando. Oh, caspita, ci metti così, ci metti un po' di pressione però, Alessandro. Così magari aumentiamo del 50% i nostri ascoltatori, da 2 a 4 magari. Aumentiamo lo share. Esatto. Senti, ma tu riesci a monitorare quante persone ci ascoltano in qualche modo? Chiaro, io ho creato un gruppo WhatsApp, come dicevamo prima, sugli ascoltatori radio e loro mi chiamano. Mi dicono sul gruppo WhatsApp, ci sono, io so esattamente quanti mi ascoltano. Caspita, poi ce lo dici anche a noi. In gran segreto. Va bene, allora oggi 9 gennaio 2017, per molti di noi è l'inizio del lavoro, delle attività, naturalmente qualcuno è già tornato la settimana scorsa, tipo noi due, giusto? Sì, Anna noi Maria? Siamo tornate la siamo settimana già... scorsa fisicamente, non so se siamo tornate mentalmente, onestamente, ho qualche dubbio. È sempre difficile ricominciare dopo le vacanze di Natale, forse direi anche di più che dopo le vacanze estive, non so. Comunque sia, sono questi due momenti dell'anno in cui, almeno chi può, perché probabilmente ci sono anche molti che lavorano durante le vacanze, che non se lo possono permettere per motivi vari, ma per chi può, insomma, sono delle vacanze molto intense, lunghe. Eh sì, è un periodo speciale, poi ci sono viaggi o... si vede la famiglia, si vedono gli amici, insomma, sì, si fanno tutte cose che si fanno soltanto durante il periodo natalizio. Certo. E quindi, insomma, ci stiamo rimettendo in carreggiata pianino pianino. 2017 è cominciato, almeno per quanto riguarda le nostre regioni del centro Italia, con la neve. Un bel po' di neve, il tanta freddo. Neve. Anche se, insomma, commentando con varie persone, sembra che questa neve è diventata una calamità. Ora, è vero, creerà disagi, povera neve, però, insomma, viene veramente presentata come se fosse un flagello. Siamo diventati un po' disfattisti, ho l'impressione. Sì, ma... Perché la neve c'è sempre stata, da che mi ricordo, nelle nostre regioni, poi, insomma... Perché ogni anno veniamo colti da sorprese... Veniamo colti, come se non sorpresa, sì, da un evento improbabile, l'inverno. Infatti. E poi ogni anno succede. E incredibile. Non sappiamo com'è. Com'è possibile? Sì, ma allora mio padre, nel paesino che è vicino a quello dove abita adesso, diceva appunto che dovevano fare dei cunicoli perché la neve alle volte si era talmente tanto accumulata che non riuscivano ad uscire dalla porta di casa. Quindi è un fenomeno che l'Abruzzo, persino le zone più costiere, ha sempre vissuto. Certo. Allora, che cosa è che adesso è diventata una cosa negli ultimi 30 anni non si è verificato? Ma forse erano strane gli ultimi 30 anni, non la neve di adesso. Il riscaldamento climatico, probabilmente. Ma adesso la colpa è del riscaldamento climatico che c'è la neve, capito? Ah, quindi adesso prima di chi era la colpa? È colpa del riscaldamento climatico. No, vabbè, certe volte sento delle notizie che proprio... come si dice dalle mie parti, nzeposindi, veramente sono proprio... Non è molto lontano da come si dice dalle mie parti. No, ma... Vabbè, comunque insomma abbiamo ricominciato con la neve e allora i buoni propositi, cerchiamo di affrontare anche la neve in in un modo positivo. A me allora, piace. Tanto che pensiamo ai nostri buoni propositi che abbiamo fatto, avremmo voluto fare o non abbiamo fatto del tutto, ci sentiamo uno stacco musicale, dai. Grazie, grazie mille. E siamo ancora in clima natalizio, no Anna Maria? Eh sì, Rosanna, di chi è questa canzone che non conoscevo? Allora, questa canzone è molto, che io trovo molto carina, si chiama Palle di Natale, tra parentesi, Smile, It's Christmas Day, ed è una canzone realizzata dal progetto Giovani dell'Istituto Tumori di Milano, ed è una bella iniziativa appunto perché è stata realizzata dai ragazzi del reparto pediatrico di questo ospedale e il loro obiettivo non è, come si potrebbe pensare, chiedere soldi, ma di avere il maggior numero di visualizzazioni possibili. Quindi io invito tutti i radioascoltatori ad andare su YouTube, cercare la canzone, appunto Palle di Natale, parentesi, Smile, It's Christmas Day, e guardare questo video, visualizzarla. Ho capito. Visualizzarla perché appunto è un obiettivo che si sono prefissati questi ragazzi dell'ospedale, del centro tumori di Milano, che è veramente una bella iniziativa. Così ce la possiamo andare a sentire quando vogliamo, anche infatti, se non è Natale, anche se ormai Natale è passato. Anche se Natale è passato e comunque sì, è una canzone che era stata già prodotta penso in novembre, ma insomma io l'ho scoperta solo qualche giorno fa ed è stata una piacevole scoperta, mi è piaciuta. Allora, i buoni propositi. Magari possono essere anche cattivi propositi, perché uno deve fare soltanto dei buoni propositi? Beh, se lo fai, fammi un esempio di cattivo proposito, dai. È tipo, vediamo, fumo due sigarette in più, posso fumarne due in meno per giorno, ne fumo due in più. Vabbè, ma questo è facile, cioè i cattivi propositi sono delle cose che piacciono di solito, no? No, diciamo che si fanno senza dirli. anche. Oppure è tipo fare il più cattivo al lavoro, no? Che dico, no, faccio io non ti preoccupare, e poi alla fine te lo mettono sotto la coda e tu fai il lavoro degli altri. Ma questo non è un cattivo proposito tuo però e degli altri. Beh, tu diventi cattivo nel fare il proposito. Ah, ho capito. Ah, ecco. Mm-hmm. Ma sei complicato però, eh? Sono un uomo. Di solito siete un po' più semplici, siamo noi quelle complicate. Ma tu non lo sai, non hai letto ultimamente, siamo noi diventati il sesso debole. Lo sai, no? Non me ne ero accorta. C'è un sacco di letteratura a riguardo, ma ci possiamo fare una prossima puntata. Sto leggendo un libro a questo proposito di un giornalista che si chiama Aldo Cazzullo e che parla appunto delle donne che diventeranno, diciamo, quelle che domineranno la terra. Beh, intanto siamo di più. In numero. Sì. È già questo. Poi, però insomma non è una questione di numero, penso. Poi vivete più a lungo. Viviamo più a lungo, siamo di più. Vi tingete i capelli? Tingiamo anche i capelli. Ah, non conta questo. No, veramente no. Io non posso farlo. Vedi? Perché non puoi farlo? Perché sarei ridicolo. Chi te lo impedisce? Cioè, immaginami con la ricrescita. Oddio, se domani ti vedo biondo, beh, qualche domandina me la faccio. No, per me non è il biondo, il rosso, il verde, il giallo, è la ricrescita, insomma, starei abbastanza male. Certo. Allora, dai. Potrebbe essere un problema, capisco. Dai, Anna Maria, un problema esistenziale. Pistola alla tempia, tre propositi per il 2017. Ah, dai. Allora, propositi seri. Sì. Voglio riprendere le lezioni di tennis. Ah, bello. Visto? Perché tanto le facciamo tutti, i propositi dello sport, cioè certo, ovunque. Certo. Tutti, diciamo, vogliamo fare più sport, più movimento. Io voglio imparare a giocare a tennis, perché adesso gioco un po' come in parrocchia, insomma. Un po' un gioco così. E quindi voglio riprendere la nostra tennis. Anna Maria Burestowska qua dalla Bielorussia che si allenava sotto la neve, poverina, contro un muro, contro il muro della parrocchia. Sì, esatto. Certo. Uno, sì, tennis, due. Non sono preparata, fai la domanda a Rosanna. Anche te, pistola alla tempia, primo proposito, vai. Sì, il mio primo proposito è di continuare a fare Pilates una volta a settimana regolarmente. Io mi accontento di poco, brava, come potete sentire, però se già riuscissi ad essere regolare in questo proposito, penso che... Ma guarda, siamo regolari gennaio, febbraio, forse fino a metà marzo. Dopodiché penso che la regolarità... Vabbè. Almeno nel mio caso. tuo secondo proposito, Anna Maria? Dai, che ce n'ho dato tempo di pensare. Ce ne ho uno, ma è una cosa molto seria e non so se... E di là sottovoce. Eh? Vorrei cambiare paese. Basta andare in Lussemburgo, è facile. Vuoi andare da Bruxelles? Lussemburgo, oddio, non è che guarda, mi appassiona. C'ho un'idea perfetta per sì. te. Vai a vivere a Dachen, che è qua dietro, e sì. fai la navetteur. Così il lunedì posso venire, esatto. ovvio. Cambi paese ogni giorno, capito? Fa una piega. Scusa, dove andare? Dachen, ad Aquisgrana. Ah, ok, d'accordo. Così ho cambiato paese, ma... No, veramente comincia a mancarmi un po' il sole, a dire la verità. Ti regalo un poster se lo vuoi, te lo metto un po' fino. Una lampada. Quale sole? Una lampada. Il sole italiano o quello africano, visto che tu hai anche esperienze africane? Beh, guarda, non spererei tanto, nel senso che sarei già contenta di scendere un pochino più verso il sud. Non spererei fino laggiù in fondo, ma insomma... Mi piacerebbe, ma questo l'ho sempre detto. Però sono sempre qua, da un bel po' di tempo. Dai, il terzo proposito ce l'abbiamo? Il terzo proposito, ridere di più. Sai che esiste lo yoga della risata? No, senti, l'ho provato lo yoga della risata e ti assicuro che non ti senti divertente. Ma ecco, vabbè. Cosa si fa? Cioè, si ride veramente? Sì. Ma perché sono delle risate false? In che senso? Ti sforzi di ridere, no? Sì. Nel senso che l'esercizio sta, non so, tipo fare un esercizio a due, guardarsi negli occhi e cominciare a ridere. Ti senti un po' stupido. Questo una volta, io non so se è tutto così, onestamente. Però, guarda, anch'io quando andavo in palestra i primi giorni mi sentivo stupido. Ti guardavi allo specchio e ti veniva da ridere. Adesso che sono grosso, con i muscoli, voglio dire, non mi sento più stupido di prima. Io devo dire il mio secondo... proposito. Se vuoi condividerlo con noi. Tutti gli altri. Allora, il mio secondo proposito non è proprio... Allora, c'è un primo proposito che se voi guardate sul web, è quasi sempre il primo proposito. Qual è? Quello di dimagrire, che è uno dei primi propositi. Io ormai queste cose le ho abbandonate. Allora, io non ce l'ho questo proposito, però il mio proposito è di non ingrassare. Questo ce l'avrei come proposito, quindi spero almeno di mantenere questo, perché pretendere di dimagrire penso che sia un po' difficile. Io penso che prima di tutto dobbiamo cominciare a fare un pochino la pace con questa storia, perché tutti vogliono dimagrire, non mangiare, e viviamo un po' tranquillamente, cioè ci va di mangiare una volta e mangiamo senza ci va un'altra volta e rimangiamo e poi ci camminiamo e ancora. Poi facciamo Pilates che ne dici? e tennis vabbè. E andiamo a lavorare a piedi. No però è al mio secondo posto, e comunque non ho detto dimagrire, ho detto non ingrassare, che è importante, perché dopo divento troppo pesante, non ce la faccio a trasportarmi. Solo per una questione di così di non di sollevarmi. che esagerazione. Vabbè, no, ma sempre sul web un proposito che ho trovato, e non lo so se questo se va bene anche per me: fare anche le cose che non ci piacciono. E di fare qualcosa che non si fa mai, per esempio, che ne so, lavare l'auto. A me non piace per niente, non lo faccio mai. Vedi, se mi dai 5 euro lo faccio io. Ah, solo 5? Mi devi fornire i prodotti, non è che devo consumare pure la mia acqua, insomma. Ah, certo, ti devo fornire anche il locale, magari. No, che ne so. Quello lo faccio all'aria aperta, insomma. Ah, ok, d'accordo. Problema risolto, Rosanna. A me invece piace lavare l'auto, lo sai? Mi spiace di non avere spazio qui per poterlo fare, è una cosa che mi diverte proprio tanto. No, ecco, una cosa che non mi piace fare, mettere a posto le carte e i documenti. Avete presente quelli che si accumulano in casa e che tu dici, vabbè, dopo questo me lo guarderò, oppure quest'altro alla fattura la metti da parte, e poi improvvisamente ti ritrovi con un mucchio enorme, naturalmente non ti ricordi più cosa c'è in fondo al mucchio o a metà del mucchio, e quindi devi fare ordine a un certo punto per così anche per sapere quello che hai. Ecco, questo vorrei. Soprattutto che mi piace il sollecito della fattura, ti rendi conto che era il caso di guardarle. Fai un bel falò e bruci tutto. No, sì, questo bisognerebbe fare ogni tanto, ma non ho il coraggio. Quindi, no, devo dire che butto già abbastanza. Conosco persone che sono peggio di me. Però ecco, anche quello che butto secondo me non è sufficiente, dovrei fare molto di più. Quindi questo è un buon proposito, di riuscire a fare anche quelle cose antipatiche che rimando sempre, tipo appunto fare ordine. Vabbè, andiamo, sì, grazie. Su questo ordine io direi ritorniamo verso sud, che è il titolo della canzone. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Ed eccoci con i colori dell'anima, mentre sono le 21:23 del 9 gennaio 2017. Abbiamo ripreso appunto con le nostre trasmissioni dopo la pausa natalizia, e quindi oggi andiamo in onda noi, cioè Anna Maria, Alessandro e Rosanna. Lunedì 16 verranno Rossella e Francesco e lunedì 23 probabilmente Cecilia, Silvia e Leonetta. Allora, dunque abbiamo un problema col telefono, nel senso che non abbiamo trovato il telefono, giusto Alessandro? Non si dicono certe cose in diretta. No, io lo voglio proprio abbiamo dire, perché abbiamo un problema tecnico col telefono, nel senso che si è rotto. Che la nostra linea è talmente piena di persone che ci stanno chiamando che non riusciamo a prendere tutte le telefonate che abbiamo in mente. Ecco, e il centralino è andato in tilt, vero? Esatto, anzi la centralinista è andata in tilt. Damo che è andata in tilt la centralinista. Allora, quindi, non avendo il telefono, Cecilia, che come vi dicevo probabilmente verrà in radio il 23, voleva venire stasera ma poi non ce l'ha fatta, ci ha mandato le sue riflessioni. Intanto conferma, anche lei dice: smettiamo di dare la colpa al riscaldamento climatico, la neve succede. Ecco, mi piace questo, succede. Succede, la neve succede. Allora, dice Cecilia, il mio punto di vista che volevo condividere è che i buoni propositi devono essere perseguibili, tangibili e realistici, ovvero cose che siano fattibili e misurabili. Adesso questa cosa della misurabilità dipende. Vabbè, altrimenti l'anno dopo ci si sente male al pensiero che una volta ancora i buoni propositi non sono stati realizzati. Nel 2016, ad esempio, questo è sempre Cecilia che lo dice, il mio proposito era di smettere di andare in giro con la borsa sempre aperta e avevo informato amici e colleghi che mi facevano notare quando era aperta. Ha funzionato! Quindi vedi, bisogna avere poi alla fine anche delle cose giusto, importanti, tra l'altro, che sono d'accordo, sono fondamentali. Bisogna avere una borsa prima di tutto. Bisogna avere una borsa. La borsa, mi dispiace Alessandro, tu non ce l'hai la borsa, Alessandra. Ma come una vecchia canzone di un certo grido recita: uomini col borsello, io c'ho il borsello. Ce l'hai, vedi? Di finto budello, sì. Di finto budello, sempre la stessa canzone lo dice? Certo, sì. Ah, ok. D'accordo. Comunque Cecilia dice che nel 2017 non ha ancora un proposito e poi però aggiunge, e questo lo voglio sottolineare, ma un buon proposito potrebbe essere mettere in blog le puntate della radio. Oh, questo lo volevo proprio leggere, grazie Cecilia, vale per tutti, mi raccomando. Grazie. Sì, ma qui c'è qualcuno che non ci ha detto assolutamente niente. E tu, Alessandro, hai dei buoni propositi? Io sono impegnato in regia. Sì, ma insomma, puoi anche parlare, puoi raccontare. Senti, Anna Maria, così secco secco come lui, vuoi che lui debba dimagrire, per esempio? Ma potrebbe dire, vorrei ingrassare, per esempio. Facciamo così, vi faccio una promessa. Il primo proposito lo metto in concomitanza con la prossima canzone, quindi o vi sbrigate a parlare o non lo saprete mai. Come ci sbrighiamo a parlare? Pure. Vabbè ragazzi, allora, nel Corriere della Sera, in un articolo pubblicato all'inizio dell'anno, ho trovato dei propositi molto simpatici, un articolo di una giornalista che si chiama Michela Proietti, e la prima regola è questa tra i propositi: fare di meno per combinare di più. Anche fare una cosa alla volta può essere un buon proposito. Il New York Times per il nuovo anno incoraggia a coltivare il monotasking. Facendo di meno combinerete molto di più. Passando in rassegna gli articoli più letti e condivisi lo scorso anno, il quotidiano ha provato a interpretare preferenze e desideri dei lettori. Ne è nato un decalogo di buoni propositi per iniziare con il piede giusto. E nella lista, che diciamo è semiseria, dove ci sono appunto 11 consigli per essere migliori nel 2017, c'è anche quella di mettere vicini a tavola gli amici più noiosi. No, io direi che non li invitiamo proprio gli amici noiosi. Vabbè, ma diciamo così, se tu per qualche motivo li devi invitare per forza, questa è una regola di Elizabeth Hanson, cugina della regina Elisabetta e sua party planner di fiducia, perché loro non sanno di essere barbosi e quindi saranno felici. E poi si passa invece dal senso di Michelle Obama per la moda, che è comunicare attraverso gli abiti, a come scrivere un biglietto di condoglianze. Non vergognatevi più di ammettere che non sapete cosa dire. Per il nuovo anno, e quindi ci sono una serie di punti che vengono condivisi con i lettori del Corriere della Sera, e appunto ne vogliamo vedere qualcuno, Anna Maria? Beh, allora, un altro punto è: rinunciamo ad essere simpatici a tutti, che ho trovato molto carina, e scrivono così: accettiamo una volta per tutte di non essere simpatici al mondo intero e prendiamone atto che il mondo intero non è fatto di empatici e battutari, ci farà sentire più rilassati nell'approccio con gli altri. Secondo una ricerca ci bastano 8 secondi per decidere se una persona è antipatica, hai capito? 8 secondi. 8, mamma mia. Sì. E per la School of Business di Chicago, la simpatia determina la scelta degli amministratori delegati. Io sono simpaticissima, che dici? Ci avrò qualche chance? Certo, molto simpatica. Poi dice, l'ossessione per la felicità pare aver gemmato quella per la simpatia, qualità coltivata, inseguita, idolatrata e in qualche caso sopravvalutata. Poi un altro punto, Anna Maria, è quello di scrivere più liste. Io lo faccio già. Ah, tu lo fai già perché ti dimentichi? Io ho poca memoria, fondamentalmente, e quindi scrivo tutto. E questo è il segreto di Chiara Ferragni, che partita dalla cameretta di Cremona e ora nell'Olimpo della moda. Le liste ti aiuta a visualizzare, ci ha raccontato la blogger, questa appunto Chiara Ferragni. La to-do list è una riscoperta dello scorso anno da trasportare nel 2017 sulla scia del magico potere del riordino di Marie Kondo. C'è chi suggerisce di ragionare per sottrazione, mettendo per iscritto le cose inutili da fare, tipo passare ore sui social. Less is more. Anche in casa, Massimiliano Fuxas invita a circondarci di pochi utili oggetti. E lui dice, potrei vivere quasi con nulla. Vabbè, beato lui. Questa è una cosa interessante, fare una lista di ciò che non si dovrebbe fare. Però forse sarebbe troppo lunga. Ah sì, infatti. Comunque, passare il tempo sul telefonino è veramente al primo posto, secondo me. Sì, diventa un po' ossessivo, mi pare. Infatti. Però fa parte della nostra vita quotidiana, insomma, lo so. Tutto sta a fare le cose infatti nella maniera più equilibrata possibile, insomma, in fondo quello che conta per ognuno è trovare il proprio equilibrio adesso. Alessandro, mi guardi strano, cosa ne pensi? Te lo dico offline. Ok, tu sei uno che sta sempre col telefonino in mano. No. Ah no, perché io ho un problema sostanziale tecnico, nel senso, nel mio ufficio non piglia il wifi dell'ufficio, quindi devo per forza andare con il mio 3G e quindi finisco subito il traffico dati del mio forfait mensile al 10 del mese precedente. Guarda, ti svelo un segreto, neanche nel mio ufficio funziona il wifi, ma quindi secondo me neanche nel mio ufficio. Secondo sì. me c'è qualcosa di sì, no, io di dico strano. Infatti per fortuna, guarda. Anna Maria, c'è un altro punto tra questi? Sì, c'è un punto, proprio punto, molto simpatico, che dice, riscopriamo il valore di punti e virgole. Dice, un punto alla fine di una frase, ma no, meglio uno smile. L'uso di social e chat ha dato il colpo di grazia alla punteggiatura già moribonda. Nel 2015 una ricerca dell'Università di Binghamton ha rivelato che un SMS che termina con un punto è percepito come poco serio, mentre piace il punto esclamativo rafforzato, cioè i tre punti esclamativi. In piena emoticocrazia, per il 2017 ci auguriamo la ripresa di punti, virgole e due punti, oltre che il recupero degli appunti a mano, più utili della tastiera nel processo di creazione di idee e molto più eleganti. Quindi questo è ciò che scrivono. Mm-hmm. Però effettivamente io sarei anche d'accordo. Insomma, è vero che usiamo gli smilini, però con insomma, tutte non le sappiamo facce più possibili. Scrivere, non si scrive più correttamente. Sì, sì, no, questo non lo so come si può risolvere. Che al limite utilizzando il telefonino ci sta anche. Mm-hmm. È più veloce, più breve, più si mm-hmm. trasmette velocemente, sì. Si comunica velocemente. Però quando scriviamo le email, quando scriviamo con un bigliettino, scriviamo correttamente. Sì, lo so, il fatto è che scrivi le email col telefonino e quindi è ovvio che fai gli errori, cioè per il semplice fatto che ci vedi poco tra l'altro su un telefonino, quindi vabbè, è così. E poi, sì, un altro punto di questi sempre del Corriere della Sera, che dice alleniamoci a ridere senza paura di piangere. Non bisogna aver paura di piangere, bisogna farlo senza imbarazzi, anche se succede in pubblico, davanti alla fidanzata, al fidanzato, al capo, a un film o leggendo un libro. Ha pianto Obama, ecco questo non lo sapevo, ha pianto Obama durante il discorso sulle armi del gennaio scorso alla Casa Bianca. La lacrima non è più segno di debolezza, al massimo un aspetto della dittatura della trasparenza, come dice Monique Seltz nel libro Il pudore. Però appunto per il 2017 il Corriere della Sera ci augura invece di ridere. E se non si vuole ridere, voi parlavate prima dello yoga della risata, ma a quanto pare in Italia ci sono 250 club della risata. Per farlo a freddo, perché fa bene a freddo, però. Sì, a freddo significa che fai un esercizio e ti sforzi di ridere. Insomma, bisogna che ti piaccia questo tipo di attività, diciamo così. No, mi sembra che diventa falsa anche la risata. Esattamente. No. Esattamente. Non va. Allora, Alessandro, ecco il tuo momento. Oh, tanto atteso. Il mio proposito è strettamente collegato al titolo di questa canzone che adesso vi farò sentire, è semplice, no? E così se l'è cavata come sempre, ancora una volta. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Quale colore potrebbe essere associato ai propositi per il 2017? Arancione? Arancione, perché no? Mi sembra un colore brillante. Uh-huh. Vivace. Vivace, pieno di speranze, pieno di energia, un colore energico. Uh-huh, è vero. Sei d'accordo, Alessandro, sull'arancione? Io avrei detto più verde speranza. No, dai, verde speranza ormai. Sto verde speranza, lo mettiamo. Vabbè, perché ci sono i propositi, tu speri che avverino i propositi, no? No, non devi sperare, ti ci devi impegnare, è diverso. Ah, non capitano così per caso? No. Ma sì, dai. Senti, ma tu, Alessandro, un viaggio lo vorresti fare quest'anno? Sì, dai, direi di sì, quest'anno sì, si può fare un viaggio. Un viaggio tutti e quattro assieme. Mhm. Facciamo così, affittiamo un bel camper, tipo quello Volkswagen, quello vecchio, tipo dei terroristi libici, e facciamo il viaggio dei colori dell'anima. Viaggio della speranza. Vabbè, sempre viaggio è. Non hai mai visto Little Miss Sunshine? Sì, l'ho visto. Una roba del genere, insomma. Visto. Dobbiamo prendere un nonno rincoglionito. Lo portiamo con noi, poi vediamo cosa succede. Guarda che bello, perché no? Mm-hmm. Quello che io chiamo tuttora le zingarate. Uno dei viaggi più belli è un viaggio che ho fatto in camper, improvvisato con degli amici, perché andavamo dall'Italia in Olanda a trovare una nostra amica che si trovava là per lavoro, ed è stato interessante. Lo immagino, in camper, ma è una cosa carina, insomma, sono quelle cose, sono quelle avventure che poi ti rimangono in mente per tutta la vita, vanno fatte. vanno fatti, questi viaggi alternativi vanno fatti. Magari quando uno ha l'età giusta. No, non credo che ci sia un'età particolare per fare viaggi estrosi. Anche in camper, perché no? In camper, in Vespa, qualsiasi cosa. Oddio, è che più passano gli anni e più mi piacciono le comodità, perciò dico... Beh, guarda che ci sono dei camper motorhome da centinaia di migliaia di euro con tutti i lussi e... Quanto? Centinaia di migliaia di euro. Costano come un appartamento. Più o meno un appartamento, in effetti. E hanno tutte le comodità del caso, sì. Ecco, magari... L'importante è la compagnia, non è il mezzo. Certo, hai ragione. Viaggiare con le persone giuste, perché se si viaggia con le persone giuste, qualsiasi cosa tu faccia, anche vai solo a fare una gita fuori porta, ti diverti e passi un bel momento. Se invece vai con delle persone un po' barbose, puoi anche fare il viaggio più interessante del mondo, che alla fine, insomma, preferisci stare a casa. Vabbè, comunque, Alessandro, dove vuoi andare, scusa? Io vorrei andare proprio al caldo, al mare. Ma tipo mi piacciono i posti dove di solito non c'è tanta gente, quindi fuori stagione, tipo il mare d'inverno, ma non che vuol dire che voglio andare in Liguria a vedere la neve o a Palermo che adesso è nevicato, tipo a dicembre vai verso i mari del sud, almeno prendi un po' di calore e fai anche delle cose diverse, quindi per una volta magari passi Natale e Capodanno non al freddo. Sì, ma quindi... Tu che sei padre di due bambini piccoli, che avrai quindi le vacanze, avranno le vacanze per carnevale, farei le vacanze a carnevale, immagino, no? Sì, non abbiamo ancora deciso dove, ma per risparmiare uno lo mettiamo in stiva e uno lo mettiamo con noi in cabina e poi tra forse Milano. Sono piccoli, li gestisci, un borsone, li metti dentro, dai. Ce la fai, via. Al posto del salvagente, under the seat in front of you, e via, risparmi anche sul biglietto aereo. No, vorrei fare una cosa con calma, però non so se ne ho il tempo. Tipo, ecco, non vorrei viaggiare sempre in prima, magari prendere un treno che va chissà dove, ma con calma, e godermi il paesaggio. Quindi goderti il viaggio, non tanto il luogo da raggiungere, il viaggio in sé per sé. Il viaggio sì, è più importante. Certo. Allora, quali altri propositi per il 2017? Vabbè, abbiamo detto che quello più famoso è quello di dimagrire. E vabbè, insomma... O ingrassare. O ingrassare, tipo qualcuno qui fra noi potrebbe anche avere questo proposito. Però direi che se facciamo la media... Restiamo uguali? Va bene, no? Cerchiamo di bilanciare un po' il tutto. Vabbè. Poi ecco un altro proposito, diciamo abbastanza classico, mangiare più sano, questo ce lo diciamo sempre. Questo ce lo diciamo sempre e direi che per quanto mi riguarda a questo proposito già dall'anno scorso che cerco di portare avanti, di mettere in pratica. Che è anche più importante della dieta dimagrante, cioè non tanto... Dieta per dimagrire, ma dieta per mangiare delle cose buone, sane, magari soprattutto poco sane, lavorate, quindi abbastanza, diciamo, nature, abbastanza semplici, che possibilmente abbiano anche gusto, ma perché insomma poi alla fine uno deve anche provare un po' di piacere nel mangiarle. Io sono convinta che mangiare è una cosa estremamente piacevole, quindi devi mangiare bene, devi mangiare ciò che ti piace. Perché se no ti nutri e basta, ti mangi, che è diverso, senza esagerare, però ecco, mangiare delle cose sane, delle cose che ti piacciono, delle cose coltivate in modo corretto, e insomma adesso c'è la moda bio, bla bla, tutte queste cose qua, noi che veniamo da delle regioni che producono di tutto, sappiamo che ci piace mangiare, come si dice in francese, les produits du terroir. Infatti, e un altro proposito molto comune che a cui le persone rispondono, evitare lo stress. Anche questo. Proposito va bene, ma insomma questo non è proprio possibile spesso. Non sempre. No, purtroppo. Per le circostanze magari legate appunto alla nostra vita privata o professionale, però è vero che per quanto le persone intorno a noi possano generare stress, ma poi dipende anche dal modo in cui noi reagiamo, cioè lo stress lo percepiamo. Sì, è causato dall'esterno, ma molto dipende da noi, insomma. Quindi dovremmo fare uno sforzo per, soprattutto poi quando le cose non le possiamo cambiare, perlomeno non dico accettarle in modo rassegnato, ma comunque accettarle senza scalpitare troppo, non so. Sì, non è facile, perché dipende purtroppo dall'influenza di altri spesso, quindi non è una cosa che puoi decidere tu stessa, cioè se lo potessi decidere tu, uh-huh. da oggi in poi non sono certo. più stressata, sarebbe anche troppo facile. Uh-huh. Bisognerebbe che intorno a te il resto del mondo uh-huh. avesse la stessa attitudine. Sì, certo. Cosa che non è proprio. Ecco, adesso mi è venuto in mente un altro proposito. Anche a me. Ah, dillo tu allora. Vai, Alessandro. Ma uno di quelli listati, quindi essere parsimoniosi. Ah. Però è difficile, tu lo fai a gennaio quando ci sono i saldi, dai. È dura. Sì. È veramente dura. Parla a febbraio, i saldi sono finiti. Siamo parsimoniosi da febbraio a luglio. In Italia fino a fine febbraio ci sono i saldi, te lo ricordi? No, io non me lo ricordo. Ah, gennaio e febbraio? Sì. Quindi neanche febbraio, siete fuori, va bene. Siete fuori dall'Italia da troppo tempo, ragazzi. E che non compriamo i saldi. Infatti, questo è più vero. Non compriamo, punto. Quindi stavi dicendo, Rosanna, un altro proposito che ti era venuto in mente? Sì, no, che mi è venuto in mente, ma perché appunto l'avevo trovato sul web, ma che si applica moltissimo a me, dormire di più è meglio. Perché io personalmente dormo molto male, soffro di insonnia, e di conseguenza poi mi rendo conto che spesso il giorno dopo non sono proprio al massimo della forma. Quindi se potessi dormire più che di più, meglio, sarei molto contenta. Però insomma, anche vorrei evitare di prendere... Cosa, esatto, anche questa non è una cosa semplicissima. Sì. Perché non è che puoi decidere, ok, oggi dormo bene. No, ma infatti, assolutamente, proprio anzi, è tutto il contrario. Proprio quando lo penso, dormo peggio. No, no, questo, vabbè, è una, diciamo, una cosa personale. No, un proposito che ho è di fare più attività al di fuori del lavoro. Per esempio, venire qua in radio è un'attività che è al di fuori, diciamo, di quello che faccio quotidianamente, che trovo simpatica, divertente, diversa, con tanti spunti anche presi, diciamo, dalla vita di tutti i giorni. Quindi mi piacerebbe fare anche, se possibile, qualche altra attività in questo senso, cioè al di fuori della vita lavorativa e che magari non c'entra proprio niente con il lavoro che faccio. Ma ci devo ancora pensare. Comunque è un'ottima idea. Intanto che ci pensi, direi che la prossima canzone ti dai un'indicazione precisa sulla direzione da prendere. Perfetto. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. E i colori dell'anima volgono quasi al termine con i propositi per il 2017. Poi nel 2018 facciamo il punto però, eh. Ah sì, certo. Punto e virgola facciamo. Punto e virgola e smiley. Ragazzi, la prima puntata del 2018 faremo proprio il punto di quello che abbiamo detto. No, comunque tra i propositi più ricorrenti c'è appunto quello del viaggiare, abbiamo parlato già di questo, ma un altro è quello di usare meno lo smartphone. E il buon proposito, che ovviamente è difficile da portare a termine perché ormai siamo così invasi dalla tecnologia e poi dobbiamo essere reperibili ovunque, a tutte le ore del giorno e della notte, e quindi è più difficile staccare, magari dal lavoro forse riusciamo pure a staccare, ma dalla nostra vita privata, dai nostri gruppi WhatsApp per esempio, e quindi ecco, bisognerebbe pensare di dedicare invece più tempo ad un'attività manuale, come il disegno, la pittura, che potrebbe aiutare a tenerci lontani dalla tastiera dello smartphone. Io ho un'altra attività a proporre, la maglia. Ah, la maglia. Quella mi viene bene. Quella a me no, a me viene bene l'uncinetto però, almeno mi veniva bene. L'uncinetto non lo so fare, però la maglia, così le dita le tieni ben occupate e fai anche qualcosa di utile. No, un altro proposito sempre di questi presi dal web è il riciclare, che appunto è una delle dei propositi che molti si fanno, cioè riciclare con più costanza, ma riciclare in tutti i campi, quindi ovviamente diciamo così la spazzatura, ma riciclare anche quello che uno ha in casa, nel senso di magari, che ne so, cambiare tutto l'ordine degli oggetti, delle cose che ci sono in casa. E io pensavo anche al riciclare regali, non so se a voi capita di ridare a qualcuno un regalo che avete ricevuto che magari non vi è piaciuto tanto. No, ecco, a me non mi capita, bravi. Non mi è mai capitato. È una cosa brutta. Perché mi spiace, anche se non mi è piaciuto lo metto lì, magari qualcosa che magari non si usa, non lo usi o comunque magari non lo esponi se è un oggetto di decorazione. Ok, e vabbè, con questo riciclo siamo arrivati alla fine della trasmissione di oggi. Io vorrei ringraziare tutti i radioascoltatori dei Colori dell'Anima su Radio Alma 101.9. Grazie a te Rosanna, grazie ad Alessandro. Grazie a tutte voi due. Grazie mille e buona serata. Buonasera.